della rima, contamino col mio amido, rido pane e panico, il consiglio resta pratico, resta carico, il suono resta solido, quando rappa coach, ante aperte, come l'estate tutte quante, come le troie con le gambe, come le porte della mente, pronte a dare rap per niente o per nessuno, prendo il microfono in mano e ti chiedi chi cazzo sono, già ti stono, come c'è sul primo rigo, ancora non ci credo, sono io che lo scrivo, ti mimo come vivo, innaffiato da bovino, gino, brindo, fumo e canto assieme a chi mi sta vicino e sono, spento come nessuno, ti appago come il fumo più potente di Nettuno, sapete che vi attumo, ma scusate che vi schiumo, a vita sto giù un tiro ad ogni prossimo mio respiro, fino a quando non uscirò dal branco, quando sarò mai stanco, e leverò i miei vizi, fino a perdere il conto, spingerò i miei skills, oltre il mio contorno, in campo, fino al momento dell'ultimo respiro, rilascio il giusto siero, invento tips lungo il sentiero, fomento il rap del mio pensiero, fomento il rap del mio pensiero, viaggio sul sicuro e mi assicuro che non manchi niente, tu stai dietro qui da sonde, scegli una delle sponde, il tuo ruolo è dentro al fronte, il pilastro di sto ponte, quando tutto a monte, solo in mancanza della sorgente, devastante, dissetante, sempre più potente, e nonostante il fato, sputa sempre addosso al caso più sfigato, collaudato, rassegnato, ma non per questo è già finito, rimugino l'incastro per l'ultimo smarrito, punto il dito, fisso l'obiettivo per un altro spartito, fino a quando non uscirò dal branco, quando sarò mai stanco, e leverò i miei pizzi, fino a perdere il conto, spingerò i miei skills, oltre il mio contorno, in campo, fino al momento dell'ultimo respiro, rilascio il giusto siero, invento tips lungo il sentiero, fomento il rap del mio pensiero, farò sta roba fino a quando la mia mente lo permetterà, a costo di mandare inviti alle jam per lettera, fino a quando l'ultimo respiro si fa serio, e più che una fumata sembra un contrattacco aereo, a volte manca giusto l'attimo per ascoltarselo, a volte un cazzo di resto conto bisogna farselo, io me lo faccio, ridi pagliaccio che più umore di merda più ti affondano col braccio, spingo o spingo, l'importante è l'infinito, fino a quando quella mano diverrà un dito, fino a quando il mio stare sottoterra significherà che oltre la superficie un posto da fallito, invito e a sbatterci la testa oltre le corna, un toro resta un toro e se si sveglia nessun dorma, la musa è giù con l'arte fino a quando il rap sfonda, ci girano intorno come un fedele a una colonna, fino a quando non uscirò dal branco, quando sarò mai stanco, e leverò i miei pizzi, fino a perdere il conto, spingerò i miei skills, oltre il mio contorno, in campo, fino al momento dell'ultimo respiro, rilascio il giusto siero, invento tips lungo il sentiero, fomento il rap del mio pensiero.